qualcuno vivo sul canale 10. Ehi, fischia, fischia. Tu sei, dimmi, dai un colpo, due colpi importanti, anzi due, se sei tu. Ok. Ok. E chi è costui? Giulio, sei tu? Ciao, sì, sono io. Stavo mangiando in cucina, oggi abbiamo mangiato tardi che stavo facendo un lavoro in macchina con un cavo. Ho sentito cicchieriare, ho detto vediamo chi sia al 10. Ho voluto fare una chiamata così, ho detto vediamo se c'è ancora qualcuno vivo sul canale 10. Ed è risposto un amico che già so chi è, però lui non entra qua. E come mai? Ah, perché non venisci uno? No, perché non gli piace modulare. Non gli piace modulare, vabbè. Va bene, e io torno a pranzare in cucina, dai. Ehi Giulio, è sempre più raro magari sentire gente. Di solito se entra Gianni, entra alle 7 di sera, così, contore. Poi l'altro pomeriggio è entrato, con esso Daniele, stava facendo prove o comunque, sai, far girare le radio, eccetera. Va bene, dai, buon proseguimento Giulio, ci sentiamo. Ok Marco, io proseguo, ma da solo con cosa proseguo? Con chi proseguo? Ho fatto un diretto sui canali, ma non c'è propagazione, per cui va bene, comunque faccio di nuovo un altro diretto, vediamo. No, proseguimento in generale. Ogni tanto con Pomponi facciamo qualche prova in PMR, tutto lì. C'è un antennino piccolo messo in terrazzino che serve per ascoltare il 99% del tempo, ma ogni tanto per vedere se funziona tutto lo usiamo in trasmissione là, solito canale monitor. Va bene, ciao Giulio, di nuovo. Ok Marco, io ce l'ho sempre a portata di mano il PMR, per cui basta che apra un cassetto qua, lo tiro fuori, non c'è problema, ma anche lì ho visto che non c'è attività, pazienza. No, fissa no, è sporadica. Sporadica, ma tu lo usi in antennino sempre o hai qualcosa di aereo esterno? No, con l'antennino direttamente, col gommino. Comunque potrei anche utilizzare qualcosa di esterno, ci metto un attimo ad agganciare tutto, ma comunque non lo uso mai, faccio sempre con l'antennino esterno così. Sì, però in effetti non c'è il tanto, perché ti ho detto l'attività è sporadica. Va bene Giulio, dai, sentiamo, ciao. Ok, ciao Marco. Vabbè, devi andare a pranzare, se no avremmo fatto la prova adesso. Un pranzo allora. Vuoi fare la prova? Tanto il piatto ce l'ho qua, a dire il vero. Da me a Ceggio naturalmente io ho la solita attenuazione di ripetitori cellulari, radio FM, però proviamo. Dove sei? Canale 1? No, canale 7, 446-081.25. Un attimo che sintonizzo. Sì, sono in modalità stretta anche, narro come i PMR veri, se no non c'è compatibilità. Chiappa, proviamo appena sei pronto. 081, così è. Sei a punto 25, se riesci a metterlo. Va in automatico questo, non c'è problema. Io sono pronto, vediamo un po' se mi facciamo due prove. Questa è una, guarda, adesso sto parlando, in questo momento è anche il PMR, vediamo se mi stai ascoltando. No, zero totale. Adesso provo a parlare io. Prova. Nada? Niente da fare. Ho sbagliato mic pure. Conta che questo è un antennino piccolo, sarà un 20-25 cm massimo. È un antennino Nagoya B-banda, bianco. Ha tre radialine alla base, è come una mini Grand Plain. Ma 25 cm è come per l'antennino. Quello che aiuta è che all'angolo esterno del terrazzino. Quindi sempre meglio che tra le quattro mura, già ricevi qualcosa in più, dai. Con Antonello ci sentiamo. Ma Antonello è facile, è più, non dico più vicino a me, però è molto in alto lui. Oddio, c'è. Ecco qua, senti, parla e poi te la mando. Prova, c'è molto correrne di fondo, molto. E poco si capisce, anzi non si capisce niente. Se correrne tu. Vediamo. Ajumai. Hola, chico, canale 10. Bene.